questo è di... Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ciao Cla, io sto uscendo, mi sto cambiando che devo andare alla messa di mamma, ciao. Ciao Giulio, ci sentiamo, sto facendo le prove con Massimiliano. Ok, ciao, che sì, c'è la messa di mamma, ciao. Massimiliano. Finocchi. Ma cosa, Finocchi ubriacone tragico sarai tu? Qui a Natalino, finalmente, ah, ci siamo sentiti l'anno scorso, un anno fa. Quindi da oggi io comunque salvo invasioni barbariche, rifare aggiustamenti, insomma roba da fare in casa, rientrerò al baracchino e non solo, anche PMR e nelle PD. Beato te che riesci a fare tutte queste cose. Io purtroppo sono ammalato, sia io ho la 50 e siamo crepati tutti e due. Ehi, a me l'hai detto, dimmi che sintomi ti dà questa influenza. Vomito, diarrea, non ti reggi in piedi, non mangi, un casotto, qua, meglio la morte, ho creduto di crepare questa volta. Me la son vista molto, ma molto brutta, pure a Trimuroni mi so guiccio. Ah, così brutta era questa influenza, caspita, vomito, diarrea, è tipico di certe influenze. Mamma mia, io non me la voglio pigliare però, se possibile non me la voglio pigliare. Guarda, un giorno quando usciamo con mamma ti porto quell'antennino lì, quello piccolo a 14 centimetri, però mi metto la mascherina, ti posso all'operatoria, però se no mi contagi, perché tu sei immune ormai, no? Però sei un portatore sano, capito? E a me mi ha contagiato quello che è venuto da Olbia, se no io lo sano come un pesce. A tutti e due, io e mia moglie, tutti e due contagiati. Ma brutta, guarda, io non ho mai visto così brutta. Caspita, e poi siete in due, l'avete passata in due, brutta brutta è. Mamma si è vaccinata perché è anziana, capito, ne rischia di più. Io, vabbè, pazienza, se mi viene me la devo grattare, però mi piacerebbe fare come fanno in Cina, in Giappone, che girano con le mascherine, mi. Mascherine di protezione. Guarda, ti giuro, mai visto una cosa simile. Brutta, più brutta di così è impossibile. A me, guarda, mi ha preso parecchie volte l'influenza, ma lasciarmi così. Sto cominciando a mangiare, se mi peso chissà quanto avrò dimagrito. Ehi, aia, noi servono a fare un po' di dieta con l'influenza, come è successo a me. Io non c'era un periodo che avevo una pancia, ma sembrava che avessi la cite, come si chiama? Chi beve? No, io non bevo. Avevo una pancia, dovevo usare le bretelle, perché non potevo usare cinture. Beh, poi mi sono venuta nel tempo due o tre influenze, ogni influenza calavo tipo 3-4 kg e ho perso il peso senza fare alcun sforzo. E infatti, io lo sforzo l'ho fatto a letto. Mia moglie si è spaventata quando mi ha visto tremando dal freddo. Beh, lo fa, ma febbre da arrivi? Non me l'ho misurata, ma sicuramente sì. Imbottito di tachipirina ogni giorno, qua. Purtroppo, prima o poi, quando vai alle poste, mamma mia, se c'è gente, rischi di... nei luoghi affollati rischi di pigliarti le influenze. O poi come in Giappone, solo che se ti metti la mascherina ti guardano male, che credono che sei un aiviezzato, capito? E non si fidano. Da noi non c'è quell'usanza di usare la mascherina. La mascherina serve in Giappone sia per non contagiare e sia per non essere contagiati. Già lo so. Mia zia si è vaccinata e l'ha presa ugualmente. Così influenza. Ehi, vediamo se c'è Claudio all'ascolto o qualcun altro. Chi c'è all'ascolto su 10? Nessuno, dai. sai, va bene, è arrivata la pappa adesso, ero da Lidl, ho comprato l'acqua, eravamo senza acqua da bere. Senza acqua da bere. E purtroppo io il potabilizzatore, il filtro non ce l'ho per farla bere pura. E allora sono andato alla Lidl, ho preso acqua gassata, acqua normale, e poi piccole cose, non so, vermouth, come si chiama quello per la colazione, il cacao per la colazione, e qualche cosetta così, dai. Okay. Beato te che sei potuto andare. Ora sai che c'era un bel di roba bella, un bel. Ho preso anche il catalogo. C'era roba per chi fa bricolage, intimo uomo, intimo donna, c'era quel famoso caricabatterie da macchine e moto che ho preso io tempo fa, l'hanno rimesso in vendita, è piccolo piccolo, poi cosa ne so, mobili per lavatrice, roba per casa, casalinghe in genere, batterie ricaricabili, un bel di roba bella c'era. C'erano il misuratore di pressione a braccio, poi c'era il termometro, quello che si mette sulla fronte per misurare la temperatura, te la misura in 2-3 secondi. Cioè tu lo passi dalla tempia, lo metti sulla tempia, puoi passare piano sulla fronte, dalla parte dell'altra, in 3-4 secondi ti misura la temperatura. Molto immediato, molto comodo. E poi tante altre cose, dai. Quello mi devo comprare io. Io ne ho due termometri, ma viene male a misurare, non si sentono. Poi sai così, noi avevamo il termometro al mercurio buono. Quello buono, che come lo fai scendere con la mano, scende un attimo, è sparito. Ci sono rimasti quello cinese, che è una serva, è durissimo da far scendere, è una cosa terrificante. Mi sloghi il polso, lo sai. E purtroppo quello buono è andato, il mercurio non ne trovi più, quindi bisogna prendere o quelli digitali, piccolini, tipo Philips, tipo... Io ho voluto prendere questo che passi sulla fronte, te la misura in pochi istanti, capito? È comodo per questo. Oppure lo puoi mettere nell'orecchio con l'adattatore. E nell'orecchio devi togliere tipo un grado, mezzo grado, una cosa del genere. E va bene, già passa Natalina, è seccante quando viene, però poi passa. E poi sei immune, a meno che però devi stare riguardato, non devi avere ricadute, devi coprirti molto bene quando esci, capito? Sciarpa, guanti, tutto devi mettere, però non avere ricadute. Sì, già lo so, adesso mi devo comprare un pigiamone, di quelli belli pesanti. Non potete cambiare idea, dare la risposta dopo che una... Adesso lo chiedo a Gianni dove l'ha comprato il suo. E lui c'ha il pigiamone adesso. No, il mio è un pigiama misero, non è molto grosso, però in compenso c'ho un bel di coperte, tutto in pile, sia il copriletto, sia tutto in pile, e io sono bello immerso nel caldo quando vado a dormire la notte. Lo so, anche io ce le ho quelle cose, piumone contro piumone. Mamma mia! Figa. Poi adesso che ci penso devo mettere il portatile in carica, forse due portatili in carica, così ce l'ho sempre comodi. Per fortuna, per grazia di Dio e degli uomini, ho trovato parcheggio sotto casa, a pochi metri, a 10 metri da qua. Ma di culo, oh, anche io già ce l'ho portato in casa. Dovevo fare la diagnosi alla macchina, la sedia. Lo sai che siccome era dal meccanico, tu ne abbiamo passati di tutti i colori noi. La moto si è sfasciata una molla che teneva le ganasce della ruota posteriore destra, ha fatto un rumoraccio, il meccanico ha detto anche che era pericoloso girare, infatti noi siamo andati subito al meccanico, che si è sfasciata in viale San Francesco, quindi abbiamo fatto corso 30 al cavalcavia e poi eravamo già dal meccanico. non ce l'aveva, quindi abbiamo dovuto tenere la macchina ferma già prima di Natale, ferma vari giorni perché era festa, il pezzo è arrivato, ce l'ha messa a posto, eccetera. E in questi pochi giorni che è rimasta ferma, già la batteria stava arrancando, lo sai. Per il freddo però, non perché sia da buttare, per il freddo, ma già sul caricabatterie, se dovesse un po' cadere la carica, l'attacco la carico in una notte. Pensa che mi deve arrivare ancora un po' di roba ordinata un mese fa. Cioè, un bel no, ma qualcosina deve arrivare. Ne ho ordinato degli doppio masco SMA, ne ho ordinati due. Devo arrivare un paio di occhiali particolari dalla Cina, mi deve arrivare quell'antenino da 4, quant'era? Quell'antenino da 19 cm, ancora non arrivato, deve arrivare l'antenino, quello pagato 2,15€, sempre da 14 cm, un bel po' di roba deve arrivare. Poi sai, tra feste, rallentamenti, e arriveranno a febbraio, o fine gennaio o a febbraio. Anzi, io l'ho ordinato prima possibile, così mi arrivo un po' prima. A parte perché tanto il Natale in Cina non lo festeggiano. Almeno non credo. Loro hanno altro tipo di festività, quindi loro spediscono poi. Casiscono in Europa, capito? Poi mi pare di non dimenticare altro, Spinotti, due antennini, gli occhiali, e poi se sto dimenticando qualcosa, boh, ti arriverà. Allora, ce n'è un ascolto, Claudio, Gianni Doppio Ruba, Franco, niente, tutti a dito non c'è della gente. Sì, magari già è più tardi che un Franco. Però sai che ti volevo dire, no? Tu ti eri lamentato che nel 27 non c'era nessuno, no? Ma sai cosa, come faccio io? Qua non c'è nessuno nel 27, parlo anche nelle PD, parlo in PMR, cioè un salutino lo puoi fare a tutti, no? Non è che devi stare solo nel 27, se siete Claudio nelle PD puoi entrare nelle PD, se siete qualcuno nelle Luca del Monte entra in PMR, per esempio, l'altra sera sono stato, faccio gli auguri a tutti, capito? Non è che c'è solo la 26, tu puoi spaziare su ben tre frequenze. Ma non mi sento, ragazzi. Ah, per quello, vabbè. Comunque che non si senta Luca del Monte, come mi avevi detto, mi pare strano, Molto strano, sente me. Poi c'è anche chi sente quando vuole sentire, quando gli fa comodo sentire. E sì, quelli ci sono sempre, insomma anche il 27 li risponde a quelle persone che se ne vanno dagli altri posti. Ma se li chiamo qua e non risponde, neanche se fa così. Ehi, lo sai Luca del Monte è fisso in PMR, è sempre solo in PMR Luca del Monte, non viene nemmeno più 27 anche perché francamente non c'è nessuno. E gli piace molto parlare. Ah, è che è in comunità con l'omonimo suo. E magari chi tu ti dici cosa si fa pensare con me, mi ha giocato a Durucci io. In combutta, ma voi non avete avuto niente, no? Quindi tu non hai problemi con nessuno, non hai problemi né con l'omonimo né con lui, tu puoi parlare dove vuoi. E io sì, io guarda se fa altro a tutte le parti, perché mi sono comportato sempre bene, solo con gli altri sono asini, non ci posso fare nulla. Le discriminazioni, capito? Io come dico sempre, Natalino, devi subire. Sì, già subisco, il giorno che mi giro però non subisco più. E subiscono gli altri male. Oh, a Capodanno non ho sparato niente. Non avevo voglia di sparare, proprio non. cresce più tanto l'antalino, poi sto crescendo, cioè ormai è dai 14 anni che sparo e basta adesso. Lo sai con cosa ho sparato? Ho sparato il calibro 6 Floppert, quelle piccoline che sembrano ghiande piccoline, 8 colpi Floppert calibro 6 e basta, che è un calibro scemo, fa, tutto lì. Già lo so. Io ero distrutto qua. Un altro sintomo brutto, non ti fa dormire. È brutto e non dormire. Guarda, io spero che mi prenda, se proprio mi deve prendere, spero che mi prenda in forma leggera. E se no pazienza, cioè se mi tocca, mi tocca. Io per me, quando vado in luoghi affollati tipo le poste, io per me uscirei con la mascherina, solo che ti guardano come un appestato, capito? Perché qua non c'è la cultura di usare la mascherina. Lì la usano, te l'ho detto, sia per non ammalarsi e sia anche per non contagiare gli altri, cioè hanno un senso civico maggiore. Qua invece i satiristi ti tossiscono in faccia, non so se hai notato. Ma si coprono la bocca quando tossiscono, maleducati. Ecco. Ciao Franco, ti ho chiamato prima, ben entrato dopo tanto. Non ti ho sentito, comunque ben entrato, ciao. Buon anno innanzitutto a tutti e due. Ribadisco, buon anno. Guarda, io sono stato assente perché abbiamo avuto tante cose da fare, poi ci sono messe le feste di mezzo. Per fortuna sono passate, adesso manca solo l'epifania e poi al diavolo tutto. Bene, ben entrato. Guarda, adesso cercheremo un po' di rientrare, di ricostituire la ruota, perché veramente era deserto. Era deserto. Guarda, sono in compagnia di Natalino, credo che sì, l'ascolterei per forza, dai. Natalino, vai per Franco. Ciao Fra. Allora la Mara. Bastarda. A chi ce l'hai? Con mia moglie ce l'ho. E la chiami così, mica è quella che ti spara davvero mentre dormi, anzi ti taglia l'uccello. Ma cosa fa questa... Sì, quindi mi dirà cosa fa. Faccio prima di ammazzarle, faccio divorziare l'italiana subito. Guarda che la donna ne sa una più del diavolo, ricordati. Ma vai che l'ammazzo quando voglio. Ti pongo il veleno per tutti nel brodo domani. Io sento un po' che a te, sì. E mi si va, via Fra. Ma la vai, già ti conosci. Oh Fra, chi mi si voglia farà? Ah boh. Guarda che adesso che l'hai detto, che domani le metti il veleno per tutti, lei ti precede, te lo mette stanotte nella cena. Nel latte ho detto che me lo mette, così mi crepa adesso. Ma non bisogna dargliene di queste idee in mano, no? Cosa? Queste armi in mano, non bisogna dargliele. Le armi già sono ben custodite. No, armi nel senso... Mettiti in testa di questa storia del veleno per tutti. Avvirumi. Ora stricchinina, gatta, ma... e mi fa furi, Fra, cazzo. Non so se ascoltate mai quelle storie che raccontano, dov'è, canale 8, canale 9, gente che ammazza il marito, ma poi con questi veleni, piano piano, quello non moriva mai, poveraccio in terra che se la ammazzava, storia allucinante. Il veleno per tutti è una brutta morte, è una brutta bestia, praticamente iniziano a rompersi tutti i capillari, quasi sanguigni, comincia a perdere sangue, a parte internamente, dagli occhi, dalle orecchie, dal naso, tutto. È praticamente un anticoagulante, il veleno per tutti. E muori come per emorragie interne ed esterne. Alla fine, sì, quasi di taglietto non ci catturerà più, il sangue continua a uscire. È come gli emofiliaci, però lì è anche più grave perché l'esito è letale. Io stavo cercando di mangiare i minestroni, sono a metà. Preferisco per parlare al baracchino, mi devo rifare di tanti giorni che eravamo spariti proprio. E Natalì, ma Gianni Ropiuro l'hai più sentito, no? Che era di sera lavorando, non può entrare quando lavora di sera. Ah, sempre di sera, e vabbè, finché almeno non gli cambieranno il turno. Sì, infatti. Finché rimane... Gennaio 2017. Natale, il 19 gennaio. È il 19 lo fai. Vediamo. Invece, per quanto riguarda il PMR RPT, ieri ho dovuto mettere il cavo fuori perché passa dallo spiraglio della finestra, no? Dovremmo bucare il muro e stava venendo una corrente, un vento tale che ho dovuto mettere il cavo fuori e chiudere proprio la finestra. Oggi invece è abbastanza tranquillo, infatti non c'ho il ricevitore acceso, niente, niente di niente. Ma poi lo attaccherò, dai, basta che non si sia vento, se no mia zia mi ha detto mi fa il buco del muro, bene, passiamo il cavo che è quello sottile, l'H155, quindi sono 5 mm, gli rifaccio lo spinotto ben bene e ho risolto il problema, finalmente. Io ho fatto il buco l'altro giorno e mi ha fatto prestare una punta di quelle lunghe da 60, di più forse da 80, l'ho passato da parte a parte. Eia, per esempio quello del baracchino ha già il suo buco, però basta, praticamente noi alla base della finestra c'è una specie di cannula, no? Non so cosa serviva francamente, no? Un fuoretino che finisce fuori, e c'è una specie di cannula di metallo, l'ho fatto passare all'interno di questo, ci è passato perfettamente. Mi pare che è un 10 mm là, il foro di questa cannula. E quindi l'ho fatto passare da lì, non ho dovuto fare buchi nel muro, rovinare il muro, perché io un po' sono contrario a rovinare il muro, ma tanto questa è casa vecchia, quindi cosa mi la fuggita. Ma non quel canale per lo scolo dell'acqua, no? Che si usava prima, diciamo, quella riga sul marmo, sul davanzale. No, te lo dovrei far vedere. Guarda, casomai ti mando una foto WhatsApp, ti faccio vedere da dove c'è questo cilindro di metallo. Anzi, mi sa che lo faccio adesso, un attimo. Io ho fatto un'altra antenna, mi Natalì. No, no, è quello, fra, hai ragione, è quello. È quello, c'è quella riga nel marmo, poi c'è un forellino che va all'esterno. E praticamente prima entrava acqua, andava su quel canale e usciva di nuovo fuori da quel canale di scolo, dalla condensa magari. Sì, sì, è quello, è quello. È quello. Fuori esce un pezzettino di tubicino corto, insomma. Sì, sì. Questa è una casa degli anni 50. È stata costruita negli anni 50, quindi avevamo quel tipo di... cosa, non so se nelle moderne, non credo ci sia nemmeno più nelle case moderne. No, non lo so, su questa io casa mia non ne ho e non è neanche moderna, invece da mia madre c'è la riga interna, diciamo, e poi una che va in verticale, diciamo, verso l'esterno, quindi una lunga che prende tutta la finestra e una che va verso l'esterno che scola proprio, là. Una raccolta d'acqua. È nata lì. Mi ero spostato. So che influenzato le mie mogliere, tutte e due, no, che gatta è lo servizio un'altra, di nessuna darsi una mano, te lo immagini. Ma ti sei messo male? Ti serve qualcosa? No, già sono a posto adesso, è quasi passata, uscirebbe, domani dopo andare a pigliare la benzina, chissà che banco, ma se non le sa trattare. No, è un casino, qualche volta è successo anche a noi, tutti malati a casa, quindi veniva mio padre, mio socio, a farci qualcosa da mangiare almeno. E a me è venuta un'amica anche a portarmi il cane, perché io l'ho crepato e poi è brutta questa influenza, fra, ti giuro, mai visto ne avevo influenza così. So con una ghetta che non dromo. Casino, ma anche io ho sempre amici lì, Alghero, padre e figlio, tutti e due ammalati. Speriamo che di passarla indenne, anche se viaggiando nei treni, ma cose così, nei mezzi pubblici, qualcosa trovate qui sempre, locali affollati. Dove c'è assembramento. Mi ha pigliato. Se pensa succedere a mia moglie. Casino, Non so cosa la male una persona che conosco io, però no, forse non era influenza, dai, era un maletto del passeggero e poi domani stava già meglio. Guarda, davanti lì, una volta a me mi ha preso lo stesso a tremaretta. A tremaretta dal freddo, ma avevo la febbre a 40. Mi ricordo, l'ultima influenza che avevo passato, o quello che era, insomma. Ha un freddo proprio che tremavo. Io mi devo prendere quel termometro che è preso su, perché quelli digitali ne ho due ma non si sentono, un casotto. Sicuramente avrò avuto la febbre a 40, me. Eh beh, probabile. No, Natali, cosa vuoi intendere come non si sentono? Guarda che basta un normale termometro da farmacia, quelli in vetro, moderni. Aspetti, lo metti sotto la sella, aspetti soliti 10 minuti e sono i più precisi quelli, ricordati. Questo l'ho preso digitale, ma io dalla roba digitale mi fido e non mi fido, anche questi misuratori di pressione. La prendo per buona, ma con le pinze la prendo. Per misurare la pressione c'è quello normale che misura la pressione senza neanche uia. La misuravo in ambulanza, figurati. Ma quale hai tu? Dimmi come hai fatto. E cosa? Tu che misuratore di pressione hai? Quello col manometro tondo a lancetta oppure quello col mercurio, come esisteva una volta? Quelli erano bellini e avevano una precisione. E all'ospedale quelli ce li hanno. A quello tondo a manometro io li uso tutti. Maggio 3. Ne ho uno di quelli normali a manometro, poi ne ho due digitali. Eia, guarda, noi ci si sono rotti quelli col manometro. Poi sai, dovevi mettere anche il, come si chiama quello, nelle orecchie, lo stetoscopio per sentire il polso, insomma. Digitale ho quello da polso e poi quello da braccio, tutte e due, da polso. Solo che d'inverno ti devi alzare tutta la manica, non ti viene bene se c'è il colpo, e allora usiamo quello da polso. Ma alla fine coincidono o sono così approssimativi questi elettronici? Quello che io, quello digitale, coincide, ce l'avevano anche all'ospedale, al centro antiipertensione, ce li avevano digitali loro. Io un po' diffido di questi, perché ogni volta che la misuri cambia sempre il valore, boh, non è mai perfetto. Boh. Oh, il mio è perfetto, poi il più perfetto sono le orecchie, basta avere lo stetoscopio, un buon esofago bracciale e misuri. Sì, quello già lo so. Ho fatto un'altra antenna mio, Natale. E che antenna hai fatto? Quella per la piccolina, come si chiama? Per quei canali, per il portatile. Ah, per il portabile. Da 48 centimetri per braccio, dai, per l'altro. Che frequenza è quella, se ti ricorda? Ma per giù l'hai fatta. Per giù cosa? Quella lì mi sembra per voi. Non mi ricordo, tutto quel canale che siamo sul con il canale monitor, che frequenza è quella lì? Ah, LPT, sì, guarda, ma sicuramente funziona anche in PMR. Sì, già funziona, però non so se è installata bene, non ho strumento per controllarla, dai. Adesso non ricordo la frequenza, comunque la misura mi sembra che sia 48-47 centimetri. Per il PMR 17 spiccioli, 17 e mezzo, va. Quindi moltiplica per 2 e così la vai mezz'onda. E quindi è per l'alta frequenza, allora, per l'LPD? E anche per l'LPD, perché l'LPD è 400 MHz stesso. Ne hai roba accesa, ne avete roba accesa che la proviamo? Roba accesa già ce l'ho io. Perché poi oggi sentivo una persona, la sentivo in due canali diversi, non vorrei che abbia memorizzato accesso al canale in due canali, capito? Forse ho confuso, però io sulle frequenze quello, non le vedo più perché c'è il numero del canale, basta. Ah, ho capito. Non lo so, perché non penso che genera forte il segnale, però puoi sentire un po' lo splatter, ma non pulito sugli stessi canali, su un canale diverso. Franco, un attimino che attacco e facciamo la prova, ok? Ok, io intanto l'ho acceso. Vabbè, sono un po' scarico di batteria, però. Proviamo sul 14. Cioè, io l'ho segnato a 14, ma non mi ricordo che frequenza è. Canale monitor. Ehi, un attimino, riprendete voi che sto prendendo l'apparato. Ma dove volete provare? 433075? 433075. Lo puoi mettere anche dal VFO. Beh, avevo abbassato qua. Dimmi. Ditemi che non ho capito. Ehi, aspetta che devo attaccare tutto, siamo tutti i capi staccati. Un attimo, dai. Avanti, buona entrata, avanti. Buonasera, mi riuscita? Ciao già, benvenuto nel 2018. Sì, adesso salvo qualche volta che faremo altre cose a casa, rientro il 27 e non sono tutto, rientro, dai. Abbiamo tutto da fare, tra queste feste maledette, invitati l'energia, qua, là, insomma. Adesso piano piano cominciamo a entrare nell'ordine di idee così giuste, dai. Ciao da Piorum, buon anno anche a te. Buon anno anche a voi, sentito. K, mi stavo cercando un modo di contoccorrente per preparare, contoccorrente per pagare, invece è caterone io, cioè di quelli russi, tutti che non danno bene. Sì, si tocca passare alle porte, dai. Sarei andato già a qualcosa un po', ho capito che è stato non ho finito. Certo. C'è anche Natalino, ciao Natali, ciao, vi sentite anche a te, dai. Sono entrato così, vi ho sentito che c'era gente, la verità che io accetto, ma non trovo mai nessuno. Poi, vabbè, queste settimane lasciatemi perdere perché sto lavorando, casi domeniche, sabato, senza rimbusi, E chi più ne ha più ne metta. Vabbè, poi è un periodo di feste, adesso l'abbiamo dedicato un po' più alla famiglia. Ehi, ciao già, io purtroppo sono ammalato e sono messo male, sia io che la 5A. Oia, e cosa va a fare? Guarda, sono una settimana che non dormo. E mi vado in piedi, guarda, con tutto. Allucinante, dice che questa cosa è un po' lunga. Un po' molto. Pure a Trimurone mi ha pigliato. Sì, l'ho fatto anche a me l'anno scorso. A Tremarella è freddo. Freddo, mi coprivo sempre freddo, mi stava anche pressionando. Se ne ha preso uno spavento mia moglie, cazzo. Quando mi ha visto così. Mi voglio comprare uno di quei pigiamoni pesanti, cazzo, per quando sono qua. Ah, io me ne ho comprato due, me ne ho comprato due e sto benissimo con il pigiamone. E anche la coperta di sopra, quella di quelle antiche marroni, è bubicata. La giacca alla camera, fa? No, i pigiamoni, due pigiamoni mi sono comprato. Vedete, in più c'ho la coperta di somma, quando mangio un prezzo mi tipo un chibisotto. Poi sembra una di quelle coperte militari, ce l'è così. Quella era un caldo allucinante. E poi di Marco, io passate qui e state là. Sì, stanno facendo le prove. E Claudio, ho sentito, sì. Cosa già? Ho detto Claudio, ho sentito, sì. Ah, non l'ho più sentito io, no. Già era un paio di giorni che non entravo, proprio perché non mi reggevo in piedi. Dovevo andare a cui, però non so se si è tornato. Sì, boh. Oh, vabbè, mi sono la vedo, non l'ho più fatto, dai. Stavo cercando di conti corretti per fare il versamento, invece non li ho trovato nemmeno uno. C'ho quelli rossi, che hanno il bordo rosso, non lo vanno bene qui, di bene. Sì, boh. Io dovrei averli, ma non lo so dove li ho messi già. Allora non mi dice, manchi in piedi, sennò per vita di... Io infatti non ne pago adesso. La pago appena preso il muro. Però il tabacchino me lo paga il tabacchino adesso. no, quella sta facendo non può pagare. Ma galla di. Compilazione a te. Compilazione a te, se vuoi c'è precompilata, non può pagare o no? Ti ripago io. E gli attacco la bolletta pagata a quel conto corrente, almeno so a cosa si riferisce. Bisogna avere poste perché è un foglietto bianco, un bollettino bianco che compili. E dietro non c'è il codice per la ricevitoria. Oh, bisogna per forza andare alle poste. Non è aumentato, no, è sempre la stessa cifra. Prova ad andare domani alle poste a pagarlo se ci riesci. No, non lo pago subito, lo pagherò quando c'è meno gente. Perché gente c'ha le poste, sì. Se domani pagano le pensioni, come prestiti andare a pagare bollettino? Bisogna che si incomodi a basso. Ehi, allora se la prendi sì l'influenza mi. No, io ci vado, non lo so quando passano le pensioni. Guarda, quando c'è meno gente io vado. Tanto le poste ce l'ho qui. Mi viene un lecciolo, un pazzo. Dai, c'è tempo ancora, dai. Vieni che non siete informati, mi hanno le sole, sono anche bianchi di sera, si fa le 7. Quindi si può andare, invece non è pagato di sera, è pagato di mattina, non c'è gente, fai tutto tranquillamente. Come faccio questo? Io vado lì, mi faccio il pagamento e me ne vado. No, non c'è niente. Se c'è gente c'è per altre cose, ma non c'è tutte le pensioni che le pagano la mattina, la sera puoi andare tranquillamente. Dai. Via Alghero, la sera, le porte centrali. Coppa di moccio mia, mamma mia, che schifo. Adesso mi faccio una foto e ve lo mando. Sembra il mostro di Alien. Lasciamo perdere. Dicevo, vai Gianni. Ho detto qui che sei buco. Io le poste di solito vado, a parte quando non c'è resta, vado alle 2, all'ora di pranzo, perché le persone, capito, devono mangiare a quell'ora. C'è un dirigente a quell'ora, deve mangiare, deve, tutto va via, non ne frega se perde il turno. Io vado lì, poca gente, aspetti 2-3 persone e poi fai. Bene, bene, bene, bene. Mi pare che un paio di bollettini ce li ho già. Io ne prendo di solito più di uno, ne prendo 2-3, perché se sbaglio poi una riga devo tornare alle poste, non esistono. Anche io faccio così, ma non prendo, ripino la maturata. Non lo volevo dire io, ma è così un po', bel po', dai. Va bene, va bene. Anche gentilmente ne mettono sempre pochini, non è più come prima che rimpinzavano di bollettini. Noi una volta non ce li hanno nemmeno, i bicchieri non ce li ha. A risparmio. Come da tutte le parti, che e allora, tagli dappertutto. Secondo me lo fanno perché sanno che la gente va lì e ne piglia un mazzetto. Cioè anziché pigliarne uno, due, va via e piglia. E piglia una decina. E allora li mettono contatti. Puoi sapere una cosa, che l'altro giorno sono andato a medicare, non ci avevano gas e vedo per la medicazione. Te li guasi. Mi hanno detto di andare e comprare, farmela io, che forse non pagavo né parcheggio né niente, ma era meglio che me la facessi. E a un certo punto sì già. Dove non ne avevano in ospedale? Terminata. E a me mettono un tipo di medicazione fatta qua, praticamente ha un cuscinetto che praticamente ti separa dall'impatto forte che puoi avere quando cammini. Ti dà una specie di sollievo, questa gomma piuma che metto. È una casa, una bella praticamente con una. È presente quegli oculari, così. Si fa da ambulizzatore, dai. Esatto. Non ti fa sentire il dolore diretto, diciamo così. E quello lì non ce l'aveva, avevano terminato. Ho detto, chiama il magazzino a vedere se. E lui ha pagato il parcheggio per andare, la benzina per... per andare e sono dovuto tornare a casa e farmi like. Mi ho comprato le pelle oculari dalla parafattoria che ci sono toccate e le ho messo qui. Comunque stai migliorando un po', sì. Beh, diciamo che l'Italia è quasi chiuso, però rimane sempre buono. L'ho toccata l'altro giorno, non è pieno, rimane sempre una sacca all'interno. Una sacca o un vuoto? È un vuoto, è una sacca. Praticamente si chiama sacca quella, praticamente è un vuoto che non si riempie di carne, ecco. Si forma il calo attaccato dalla parete e non fa da un come la natura, boh. Tu piglia una pettina di cappocollo, basini buono, un pezzo di rai intrecciarvi. Magari anche un pezzo di coscia, boh. Si potrebbe mettere, l'avevo già proposto al dottore, ma te ne parlerò con più plastico, ma è basta. Un innesto, dai. Ma lo sai cos'è? Il pericolo è questo, che ti tolgono un pezzo di casa dall'altra parte e magari diventano due le parti che non vanno bene, che non guariscono. E allora lui dice, per rischiare è meglio curare questa, di parte se da toccarne altro. Sì, a mia madre gli avevo ricostruito l'orecchio, mi chiama il timpano con della pelle presa dalla la pelle che c'è sulla tibia proprio. C'è una bella cicatrice lì e non sente nulla ancora. E vabbè, forse l'hanno fatto perché cosa c'era? Tipo l'ha mangiato da qualche sede? No, da un'infezione. No, perché un'amica mia è andata al mare e poi si è andata dopo pranzo a mangiare finetta, si è sdraiata e cosa. E sicuramente è stata qualche zeccano e lui che sentiva questo fischio, lui ha cominciato a venire questa febbre forte, l'hanno fatto all'ospedale, l'hanno controllata tutte le parti, siccome in estate si sa che ci sono le zecche, e gli hanno trovato la zecca dentro l'orecchio, gli abbiamo mangiato meno di maledetta la zecca. Il mio cugino gli ha distrutto il sistema nervoso, era in festa, gli ha distrutto il sistema nervoso, un cristiano di 2,20 metri di altezza, era un gigante, l'ha aspettato in due, adesso si è un po' ripreso, però ha passato brutti momenti. Ti senti Marco? Io poi ho la fobia delle zecche, proprio la fobia, a parte che io con gli scetti non vado d'accordo, rane, coso, non... è proprio una repulsione. Una volta era andato a Portoferro, insomma mi ero fermato un po', insomma mi sono trovato una zecca camminando in macchina, ehi, sono uscito di testa, ho allagato le macchine, la macchina di quelli che poi non l'ho schiacciata perché sono salito a casa, no? Ho preso tutto gli insetticidi che avevo fatto, ho allagato la macchina, poi mi sono tutto spogliato, ci ho fatto la doccia, mi sono guardato ogni piega, ogni cosa, ogni pertugio, mamma mia, una cosa terribile la zecca, proprio una repulsione tale. E la zecca anche a me dà fastidio, un po' ho paura anch'io, perché poi lavoro in campagna, io quindi sono progetto, quindi a volte mi controllo sempre. Guarda, io al cane li metto sempre le gocce per le zecche. C'è gente che a settembre finisce di mettere perché c'è tanto zecche e pucci, non ce ne sono più. No, l'amica mia l'ha smessa, io la vedo tutto l'anno. Ha smesso di mettere le cose, ci ha preso la Lesmaniusi, il cane, perché l'ha fatto una zanzara in festa. Si è andato, le ha preso la Lesmaniusi. Sì, la zanzara è la maledetta che conduce. È bello che non guarisce quella malattia, ti fa il sangue di vita delle unghie, io ne ho visto uno con la sbaglia di casa con le bambine. Sì, una volta mi ricordo, tanti anni fa, non si trovava il glucantin nella medicina per curarlo, tramite un'amica me l'avevo fatto portare dalla Corsica, e costava anche un po' di più. Ma non guariscono, gli tappano la malattia così, però lo fanno vivere per un po' di più, ma non è che guarisca. No, però quando era giù proprio lo vedevi il cane da terra, gli dava la medicina, il pelo cambiava colore, diventava di nuovo nero lucido, insomma la differenza c'era. Sì, ma è un inquinamento, l'inquinamento del sangue, no? L'inquinamento del sangue, così. Non so nello specifico, perché non era, il cane non era il mio. Io conoscevo questa ragazza dalla corsa che mi ha detto, guarda se riesci a farmi mandare un paio di scatole di medicine. E l'ho utilizzata solo per questo e poi l'ho data a lui. Ah, ho capito. Ma ci devo andare a vederlo su internet, mi interessa, perché tanto non è disperata, cercare che ce l'ha un anno e mezzo, perché è giovane quel cane, è così bello. Questo era uno, sai, fatto un Doberman. Ma no, lì c'è un cane da caccia, è un po' enter, ma è bello, e c'è un anno e mezzo, è giovane, capito? Se dice che era sempre saltillo, dico, ha cominciato a mangiare, a battersi, e si è accorto, dico, l'ha portato al pettino e ha detto che va alla svanita. Eh sì, no, colpisce qualsiasi animale, dai, qualsiasi razza, volevo dire. Sì, sì, non sono i pappagalli, cioè sono le zanzare che ti contagiano quella malattia. Sono infette, pungono qualche animale infetto, ti pungate e tac, ti rabbia. Meno male che ancora non sta contagiando l'uomo. Invece le zecche all'uomo gli portano la, potrebbero portare la rickettsiosi, un'altra rogna. E la malaria? No, le zecche dico, la rickettsiosi. Mamma mia, proprio io ho una repulsione per insetti, soprattutto quelli che pungono, tipo ragni, scorpioni, oppure quelli che succhiano il sangue, che ti portano malattie, mamma mia. Una volta, sapete cosa? Sono sceso in una scogliera di Calaviola, me lo ricordo ancora. Scendo e c'era questo cane, o meglio, sono stato al mare, poi a un certo punto sento dei rumori poco lontani, no? E c'era questo cane abbandonato proprio in fondo agli scogli, no? Ho dimenticato, non lo so cosa, guardo pieno di zecche e anche sugli scogli stavano camminando tutte le zecche, io me ne sono fuggito, poi ho lavato il zaino tutto perché l'avevo poggiato di vicino, avevo chiamato la, chi era, come si chiama, forestale, allora sapevo il numero, ho detto guardate c'è un cane abbandonato in tal zona, è pieno di zecche, quindi me ne sono fuggito. Poi già, se voglio intervenire, sarebbero intervenuti loro, così se le beccavano loro le zecche. Che basta! No, gliel'ho detto delle zecche. Una cosa impressionante, il cane, gli scogli, ho visto le zecche camminando, mamma mia, mi si è stretto, tutti i buchi mi si sono stretti. È successo anche a me una volta in Pinetta, stavamo mangiando e vedo questi rapidi, questa erba che c'era, che appena di zecche rosse, di quelle piccoline. Ma quando lì si attacca un po' diventano bianche, si gonfiano. Quelle che diventano grandi, un po' bianche, tipo fagiolo. Esatto, prima sono rosse quando sono piccole, no? E poi crescono sopra di te, quindi più succhiano il sangue e crescono. La catenaccia, come la chiamano in sassarese? Purtroppo, guardate, l'hanno fatto vedere, avete presente quel programma Nudi e Crudi, dove prendono un uomo e una donna, li mandano in zone isolate dei Caraibi o dell'Amazzonia, non so, e devono sopravvivere 28 giorni, nudi e crudi, senza niente, a culo nudo proprio. Anche lì come dormendo vivo si trovano tutte le zecche addosso. Ai mamma mia, già roba che posso fare io. Sì, dove sta mirando sul programma? Comunque davanti tappano, come si può dire. Come già? E dico che si tappano davanti, si coprono là. Oppure oscurano, capito? Ma almeno le tizie e le donne le potevano far vedere. Ma come le fanno vedere? Oh, non lo so, perché mi confondo con questi programmi, perché c'è poi Nudi e Crudi e quello della sopravvivenza, poi fanno quello della spiaggia dove si incontrano ragazza e ragazza e dovrebbe scoccare secondo la testa loro la scintilla. E il conduttore quel depravato di, come si chiama, Luxuria, Vladimir Luxuria, poveretto. E insomma, no, io mi ricordo che certe volte oscurano, proprio fanno l'effetto, coprono digitalmente le parti, solo il sedere fanno vedere. A una certa ora, poi a una certa ora ti fanno vedere. Beh, non tutto, no, coprono le pudette. L'altra notte c'era un programma su cielo, non so se l'avete visto, di questi che praticamente si incontravano in chat, no? E organizzavano questi incontri nella piscina, tutti nudi, chi si bacia, chi gioca, chi fa, insomma tutti in greffa, hanno tutto quanti anni c'è, ho 10 anni meno di te, tu sei mia madre, non so che cosa, guarda che belle tette, questo e quell'altro, sì, che si confrontavano, i maschi gli facevano i complimenti, tutto un troiaio. Oh, la TV sta diventando davvero una spazzatura, tra pubblicità di vibratori per le donne. Poi non ho capito perché le pubblicità sono per le donne e non fanno anche le pubblicità per l'uomo, se proprio le dobbiamo fare, no? Per gli oggetti per l'uomo, no? Poi io non ho mai visto questa pubblicità. Natali, tu l'hai vista? Cazzo, dopo tocca tirare una revolverata. E avete parlato in due. Gianni, allora c'è un canale di quelli, canali terra terra di televendite che vende che tutto il giorno fa pubblicità di questi, naturalmente lo fa in modo un po' discreto, cioè non dice vibratori, dice stimolatore, elettrostimolatore per il piacere delle donne, poi l'ho visto anche sui canali normali, magari non la Rai, non Mediaset, ma gli altri canali, 7, 8, capito? E mamma, i piccioli la fanno vedere in TV, e io lo faccio la battuta, perché te la vuoi comprare? No, a trovare! Ehi, vabbè, ma noi siamo di battuta, dai. Hai visto cosa fanno vedere in TV? Io, perché te lo vuoi comprare? E lui cosa sta vedendo? No, siamo messi a ridere. No, già siamo abbastanza in confidenza, dai. Beh, se non è conto male, le contestazioni che ho detto. No, andava bene. Natale, cosa stavi dicendo? Non ci ho capito. Non si può vedere nulla qua. Scusa, non si fa vedere quei programmi nudi e crudi o quello di, che si incontrano in mare nudi, no? Io sei buona di mi porco, è bravato. Comunque guarda, nudi e crudi allucinanti, io non l'avevo mai fatto, ti fanno andare scalzi sulle rocce, sulle spine, cioè roba che io non durerei un giorno, non durerei un giorno. Ma quella gente dura, perché ne due vince. Ma qualcuno ha già si è ritirato, Pignendi, che si è avvattolo di Bari, dipende, ognuno, certe volte qualcuno molla, perché io non lo farei mai, poi nudo tantomeno, non è che sia un bel vedere io nudo, Marco, lì ci vuole spirito di cosa, di avventura, se non c'è lo spirito di avventura è meglio che non ci vada. E anche spirito di sacrificio. E l'avventura porta tutto, è normale, devi buscarti da mangiare, devi farti il fuoco, devi costruirti la campana, devi farti la vacca, eccetera, eccetera, se vuoi dormire. Insomma, devi destreggiarti, se no ti destreggi queste cose. Eia, avete notato una cosa che non so quante edizioni ci siano, ma in certe puntate facevano scegliere sia a lui che a lei un oggetto da portare utile. Poteva essere un acciarino, poteva essere un macete, un coltello per tagliare legna, non lo so, un piccolo oggetto. Però nessuno mai che si sia portato una cannuccia, come li vendono nei negozi di articoli militari, una cannuccia per filtrante al carbone attivo per depurare l'acqua. Lo sai, bevevano l'acqua mezza putrida, poi stavano male. È chiaro, no? E hanno bevuto anche la pipì, tu non l'hai visto, ma io sì. Cosa hanno bevuto? La pipì? Esatto. Beh, quello l'ho visto fare a Bear Grylls, che mancanza di acqua, vabbè, lui lo fa per dimostrazione però e non perché è costretto. A parte che Bear Grylls è uno che era stato nelle forze speciali inglesi, insomma è uno che ha un po' di spalle. Sì, l'avevo visto, avevo fatto la pipì nella borraccia e poi se l'ha bevuta. E io ho detto, ehi, Gatorade. Oh, che poi se bevi Gatorade, il giostante, l'odore è quello, il sapore è pure, mi. Capito? sali minerali. E c'aveva un po' l'odorino di... Oh, insomma, mamma mia che schifo però, mamma mia. Ma non è che tu le manca l'ammoniaca? Vabbè, c'è ammoniaca anche, però mamma mia. E una volta però io l'ho visto contare. Era andato nelle tribù del deserto africane, gli hanno fatto mangiare i testicoli del caprone crudi e ha vomitato però. Persino lui ha ceduto a quella cosa lì. Invece una volta voleva, praticamente ha trovato una mezza carogna molto fresca di cammello, una zona dei deserti. Ha tagliato la pelle, ha preso il grasso per nutrirsene, il grasso del cammello, e ha detto, almeno nell'edizione italiana, è già rivoltante, mamma mia. Ehi, sono un cammello particolare, dai, con il cammello. Avanti, quando c'è fame è tutto buono. Per quanto riguarda l'urina, mi ricordo anticamente in un periodo di guerra mettevano della sabbia dentro uno zaino e tutti facevano i bisogni dentro lo zaino, e quella che scendeva da sotto era filtrata dalla sabbia e si beveva. Però in effetti non ho mai visto uno portare una cannuccia filtrante al carburativo per bere l'acqua, oppure piccoli sistemi a pompa filtranti per depurare l'acqua, roba non abbastanza al contenuto. Però la cannuccia è quella migliore. La cannuccia l'ho vista su Italia Militare, è una cannuccia lunga una ventina di centimetri, c'ha del carbone attivo dentro e praticamente ti depura l'acqua. Però, chi ti dice che ammazzi i germi? Io non ci credo. Infatti qualcuno che aveva la possibilità bollivano l'acqua, chi aveva la possibilità bolliva l'acqua e facevano anche bene. È quella che ci vorrebbe qua a Sassari per bere l'acqua dal rubinetto. Oh, l'ammoniaca non era gallo vicino. Come sbagliano il cloro che metto nell'acqua, ragazzi, se ci ribollino. Devo pulizzare, manco a cucinare, secondo che giorno è. Ci sono giorni che la puoi usare, ci sono giorni che proprio scende con l'ultima. Adesso è un po' di tempo, sarà due settimane che non mi scende con l'ultima. Dipende dai lavori che fanno, ogni tanto aprono qua, spaccano e ti arriva tutta la mondetta, te la fanno pagare a peso d'oro. Sì, ma infatti dovremmo fare qualcosa e farci risarcire tutta l'acqua che non abbiamo potuto usare e abbiamo pagato inutilmente, perché il servizio che non ci danno. Molti comuni hanno fatto denuncia, bisogna riunirsi e fare una class action, come fanno in America, e denunciare. Molti comuni hanno vinto comunque. Mi ricordo che il comune ho sentito se è ritornato il ritornato comunale la storia dell'acqua. Hanno buttato fuori la parola. Magari. Sì, sì. No, dico magari a Sassari, per fare come prima, però. No. Ma c'è voluto fuori la parola, capito? Mi sa che avevamo fatto anche il referendum, se non sbaglio, l'abbiamo votato, nulla, no, è ancora qua. Non è così che si manda. Ha mandato in bolletta, lei ci hanno mandato una bolletta di 150 euro per un errore che hanno fatto loro, non so che cosa, dovevamo pagarci l'acqua. 150 euro a testa il condominio. E praticamente nel mio condominio c'è un avvocato e ci ha detto per evitare che ci stacchi un'acqua dopo 10 giorni come per legge, è meglio che la paghiamo e poi praticamente le facciamo causa. Però pagarla per bloccare questa storia che ci possano tagliare l'acqua, perché dice io non me la sento di andare, non lo fate fare dall'acqua, eccetera, eccetera. Vado in bagno un attimo. Sì, è così, prima paghi e poi la contesti, capito? Sì, sì. Non conviene non pagarla, perché se non lo paghi ti tagliano l'acqua. Prima era un bene di prima necessità e non si poteva tagliare, adesso è cambiata la legge nel mese. Beh, l'energia elettrica mi sa che ti lasciano un minimo giusto per una lampadina, così è. La luce si ti abbassano il chilo, quattro, eccetera, eccetera, e poi te la attaccano di tutto, se non paghi. Invece la l'acqua o te l'ha staccato direttamente dopo 10 giorni? No, non so. Infatti noi, è un'altra storia che abbiamo, un altro comune, dai. Abbiamo un contatore comune in tutto il condominio e lì è un casino perché se non paga uno, alla fine poi la staccano a tutti l'acqua, perché abbiamo un contatore in entrata e poi il resto viene suddivisa in base ai consumi, noi abbiamo dei contatori interni praticamente. Ah, c'è la... suddivisa, diciamo, comune, fra tutti poi viene suddivisa ogni condominio. Vabbè, come da noi, ma da noi praticamente l'acqua noi la paghiamo condominiale, capito? Noi la paghiamo al condominio direttamente. Sì, no, anche lui, infatti è così, c'è un quotatone generale, è rimasto tipo quello che quando c'era il cantiere che stavano lavorando praticamente, poi dal contatore generale va alla rastrelliera direttamente, dove ci sono tutti i contatori nostri privati, e ognuno poi paga in base a quello che consuma, però quello che conta è sempre il contatore generale, quello di fuori. Ma l'unica cosa per risparmiare è fare la lettura e mandare la lettura sempre, perché ti fanno pagare sempre forfettariamente, perché prima leggevo il contatore, adesso non leggo, non ci viene più nessuno a leggere. Devi fare una cosa forfettaria, magari o ti farò pagare di più, se ti farò pagare di meno, poi li ho recuperato di una volta, è un casino. Stai dicendo che è un casino, c'è gente che gli è arrivata anche 600 euro di acqua di corpo perché non gli arrivavano a pagarla, adesso gli è arrivata di corpo. Addirittura la storia quando si era rotto il tubo tra il contatore nostro e il contatore generale, si è rotto il tubo. E quindi sono arrivati, diciamo, 26.000 euro di acqua da pagare, no, 56.000 euro di acqua da pagare. Ah, e come avete fatto? Sì, perché c'era fogna e qua, ho detto, ma guarda, quell'acqua in fogna non ci è andata, abbiamo fatto un ricorso e ci hanno fatto un bel condono, dai. Madonna, avete pagato lo stesso condono? Sì, ma non dico una pensione, ma molto, molto meno, perché poi andava suddivisa in tutto il condominio, però cose allucinanti, perché poi le fasce aumentano, a posto di essere in prima, in A, B, era in fascia Z praticamente, poi paghi anche la depurazione, la fogna in base all'acqua che tu consumi, e lì c'è... Ma non pensate, cioè, se poi c'è una cosa del genere, che c'è un contatore che segna tutti questi cose, dagli un colpo di matetta, digli che te l'hanno rotto e venite a cambiarlo. Vabbè. No, io l'avevo messo nuovo il contatore, l'avevo fatto mettere nuovo. Perché dice che quelli che c'avevamo erano obsoleti e dovevamo cambiare per legge. Sì, anche noi l'abbiamo cambiati da poco, abbiamo messo tutta la straniera in ottone, perché prima era in ferro e dava sempre problemi, invece questa è in ottone praticamente, dovrebbe essere eterna, dai. Sì, mi sa che dietro adesso non c'è più nulla, noi ogni tanto si faccia una cosa. Adesso, l'ultima cosa è che mi hanno sfasciato, non l'ho consiglio. Tirando la cartella, deve essere mio nipote l'ha tirata in una maniera errata o che cosa. Mi ha spaccato quel galleggiante che c'ha all'interno, quello in polistirolo, ha spaccato il coso in plastica che lo tiene. E quello è attaccato alla vaschetta, quindi io ho di quelle vaschette fisse, di quelle che non di plastica, ma quelle di terracotta, quelle da solo. Fatto sta che devo cambiare tutta la vaschetta, perché è attaccata la vaschetta questa giglia. Ho capito, guarda, la sfera in polistirolo che è quella che poi va a chiudere l'acqua, dai. Quella che chiude l'acqua? No, c'è quella che chiude l'acqua, sarebbe quella in plastica, col galleggiante in plastica, poi ce n'è una in polistirolo. No, chiude l'acqua quella che scende dallo sciacquone, non l'acqua in entrata, no, quella in uscita che chiude. Ah, però penso che si possa riparare senza cambiare tutta la cassetta in ceramica. No, non esce. Si è attaccato tutta la cassetta. Gianni? Sì. Ma non c'è lo stesso nipote che ti ha cancellato tutte le foto? Esatto. Cazzo, ma non lo prendi a cazzo in culo? Io non l'avrei più fatto entrare in casa. Sì, come fai? Come fai a non farlo entrare? Per me è come un figlio. purtroppo è sfortunato e tutti i genitori ci sono molti, quindi qua è come se fosse a casa sua. E infatti ci faccia la roba, mamma mia, poi tutte quelle foto, quando penso a quelle foto, tutto quello, tutto il tempo che c'è messo, la fatica, le file, mamma mia, mia giuscia, visto che dice quasi come un figlio, avessi fatto una giuscia. I chilometri che ho fatto, cazzo, si la posa di subisci. Quella è stata brutta, vabbè, vai, va, uffa. Anche i figli vanno educati, così è, Marco. Hanno messo le mani dove non devono. No, vabbè, dai, io dico così, poi non sarei capace, però caspita. Infatti a Gianni gli era passata la voglia di fare foto proprio perché gli ha ricevuto mesi o anni di lavoro facendo foto. Posti, benzina, appunto, le foto al carcere, aveva fatto una filona per entrare. Un bel di roba, un bel. Gianni, quanti mesi o anni di foto c'erano lì? Un bel. Allora, avevo fatto questo programma, mi ero messo in testa di fare tutte le chiese dell'era bizantina, e mi avevo fatto Porto Torres, avevo fatto San Caggia, Santa Maria, tutte le chiese antiche, diciamo. Poi ero passato ai nuraghi e sono arrivato a Siracusa, dove ho trovato questo nuraghe che era perfetto, non mi mancava una pietra, nulla. C'era questo viale lungo e praticamente ho ripreso tutto il viale col nuraghe. E poi sono entrato, ora ho fatto tutti i particolari, insomma, guarda, ti sto dicendo che poi sono andato a Bosa, ho fotografato il castello, siamo scesi giù al mare, siamo andati a Bosa Marina, abbiamo girato di lungo e largo, ci siamo fermati anche a Barbarici una cosa, qui ho continuato perché eravamo tutti in Grecia. Ho fatto fotografia degli amici che me l'hanno chieste, e ho fatto male, quello glielo ho fatto aprire subito, sai, abbiamo messo Luigi. Platamona, ho fatto fotografia a Marco, a Lucido, insomma, c'era proprio un bel fotografia. La discesa dei Carruzzi, che c'era mia figlia che correva col Carruzzo. Insomma, ho fatto parecchie, ricordi in casa. Sulla pinnia, ma non ci ha fatto. Spiegami come le ha cancellate. No, devo chiedere a lui come ha fatto. Pensavo forse te stavo a guardare, non lo so. Ricordo, a me non mi ha detto niente, piano piano, ma dico, fammi vedere queste fotografie che fa. Siccome c'è il televisore che si può mettere a pennello sì qui, no? E ho messo il televisore, cazzo, non c'è una fotografia. Ho sudato, no? Forse sto sbagliando io, forse ho sbagliato l'entrata, forse qua, forse là, mille prove, mille cose, lo metto nel computer, la stessa cosa, non c'era più una fotografia. Hai provato qualche programma per recuperare queste storie qua? Perché in genere qualcosa la tengo, no? Sì, ho provato. Ti dà i file ma non te li ha. Provato. Tre dei programmi li abbiamo usati. C'è il ragazzo di mia figlia che praticamente è un mostro con il computer. Ne ha provati tutte. Beh, già, non si può fare nemmeno. Non lo so come abbia fatto, forse lui voleva togliere qualche cosa e le ha cancellate tutte, ma completamente, cazzo, non capisco come abbia fatto. Completamente, non è rimasta una. L'aveva formattato, no? Ma non lo so perché non c'ero, lui il computer lo usa, purtroppo non è una persona normale, dai, te lo devo dire, non è come possiamo essere noi, quindi qualche cazzata la fa, dai. No, non per quello, sto pensando cosa potrebbe aver fatto, poi sbagliamo anche noi, noi grandi, adulti. No, io gli stavo facendo l'inventario col terminalino, guarda, ma prima di sparare guardavo 30 volte, perché una volta a me mi è successa una cosa, e te lo dico, ci credi. Praticamente, prendendo il terminale in mano, ho toccato un pulsantino e ho eliminato tutto quanto l'inventario che avevo fatto. Di giorno e giorno. Bisogna abituarsi quando fai un lavoro subito a fare un backup, una copia, salvarla, va, così anche con le foto. Io sto mettendo tutte su Google Foto, man mano che faccio foto le butto lì dentro. Ma io dal computer una volta che ho trasferito nell'appendina, lei con tempo per non occuparmi la memoria, capito? Con tempo, se no se non le ho trovate di nuovo le fotografie. Solo che io le trasferisco nell'appendina appunto per evitare di aprire il computer. È come se non c'è la memoria esterna. Però l'appendina andava benissimo, era 16 GB, quindi la voglia che ce ne sta. Cazzo. Siamo un po'... Ma Natalino c'è ancora, Natalino ci sei? Sì, a Giacciano. Dai, riprendila un po' tu. Eoia, mia moglie mi sta costringendo a mangiare a forza. Io mia moglie mi sta avendo fame, non ha cucinato nulla, adesso l'ha rotto così, c'è una gare, adesso l'ha guido. No, non ho voglia di mangiare, no, troppo. Non mi reggo in piedi, ragazzi. Ma devi mangiare, dai. Due roba fresca, non è che ti piace. Ma non senti sciapuri, quando c'è l'influenza non senti sciapuri. È quello che non ti stimola a mangiare. Marco? Sì, un attimino mi ero allontanato per mangiare il dolce, dai. E Natalino non stava parlando, no? Forse è a cena Natalino a quest'ora. Rispondi tu? E allora sono io che mi sono allontanato, dai, parlate, parlate, dai, già rientro fra poco. Vai, mangia, sempre mangia, io stai mangiando un panettone. No, basta panettone, anzi ti dirò, da Lidl siamo andati a vedere se c'erano panettoni e pandoro, spariti, non c'era più nemmeno uno, che noi li mangiamo a colazione, no, assieme al latte, una fetta di dell'uno o dell'altro. E vabbè, ci mangiamo altre cose. Io l'ho mangiato ieri, a me piace il panettone classico con l'uva passa. A molta gente non piace, ma a me mi piace per lui perché rimane umido, non rimane asciutto. Non mi piace il pandoro tutto mi fa che bruciola lo stomaco, non lo digerisco. Quelli falciti a me piacciono, c'è la crema dentro, Gran Marnier, queste cose qua, quanto ro. I giriati non mi dico. Anche a me piacciono. Ho mangiato anche la Natalino, al quinto l'ho mangiato. Sì, già sono puri, ma ne mettono appena, non si sprecano. Anche lì stanno tagliando. Noi prima mangiavamo il cremuso, adesso di buoni risultati. L'altro giorno ho preso i Ferrero Rocher, no, i Ferrero Rocher, come si chiamano? No, neanche Poker Coffee, quegli altri, i Moncherì. Beh, c'era un pezzo di ciliegia dentro, ma il liquore proprio quasi niente. E poi ho detto, ma non è che sono scaduti? Invece no, erano fatti da poco. Ok. La città era tutte le parti, insomma. Per forza, ho bisogno di nada, che cosa fai? Quando non ci sono subito, non ci sono subito. Puoi cambiare politica di prima, di questo, dell'altro, ma quando non viene non viene. I Poker Coffee invece sono pieni ancora, ed è sempre buono, Invece quelli mi hanno un po' deluso, il cuore è quasi zero. Ma lo sai che se ti fermano, ti immagino di qui, di carta di tutti, testentini con risulti che sei superiore ai gradi etnici che ci sono. Per quello vado in treno io, dai. Ah, voi viaggiate in treno, non ci avete proprio la macchina che cammina su rotaie? Ci sono macchine che camminano anche su rotaia, però quelle lavorano solo su interruzione di linea, cioè praticamente io chiamo il dirigente, faccio un'interruzione di linea, dico che devo entrare per lavorare, quindi non mi mandano treni finché poi io non do la via libera, capito? Bisogna compilare un dispaccio telefonicamente con dei numeri di riscontro e così via, da stare in sicurezza. Ah, cioè, per arrivare nel punto dove dovete lavorare, arrivate con il treno oppure con questi macchinari che avete? Dipende che tipo di lavoro. Ci sono lavori dove le macchine non ci vogliono, quindi ci vai in macchina oppure ci vai in treno, se c'è la fermata vicino. A volte che ha deciso ne ha autorizzato anche fermate intermedie solo per fare questi lavori e basta, ma non ne fanno più ormai, cercano di fare orario e basta. Già siamo sempre un po' in ritardo. Lo so, il lavoro della ferrovia è un po' complicato, cambiare tutti quei travoni che ci sono, ma mi sa tutto. E ormai stanno tutto dando in appalto, praticamente c'è ripresa da nulla, ripresa e viene, fanno tutto loro, dai. Ma non le fate più buoni. Quanto durano quelle travi? Ma le travi in che senso? Le binari o le traverse? Quelle dei binari, quelle traverse di legno. Noi adesso per esempio qua non abbiamo più stazza Realiero e stazza Rissoso, sono tutte in campo, in cemento armato precompreso. Ah no, non ci sono esistono più così. Solo nei pezzi vecchi, tipo da stazza Riverso Palau, la linea vecchia, oppure nei piazzali, dove non ne puoi fare a meno, se no il resto è tutto in cemento. E la tenuta è la stessa. No, nettamente migliore. Ho trovato un nuovo sistema. Oh, c'è già 30 anni, 40 anni, qui è arrivato un po' di meno, però continente oppure grosse linee veloci ci sono già 30, 40 anni, forse che in più. Se la vi. Bisogna aggiornarsi. Anche qua siamo dimenticati per quanto riguarda l'attualità. E cappa, dai, anche io vado a mangiare qualcosa. Ci sentiamo dopo. Marco, ci sei? Mazzarino? E io, Weimar, sa, già ci sono io, se entro glielo dico che si è andato a mangiare, già rientri dopo. Grazie, ringrazio. Dai, buona guarigione a te e alla signora, ok? Buona cena! Grazie a tutti. Marcolino. Eia, ma chi è che stanno a cena? Tarino o Franco? Franco. Ah, ok, da. Buona cena, va. E Gianni c'è ancora? È andato a rispondere al campanello. Dai, grazie per la buona cena. A dopo anche a voi. Eia, frada, io adesso appena posso rientrerò, insomma, quando sono libero. Dovremmo mettere i famigerati stanzini a posto, c'è un bel di roba da buttare, una rete di letto, cose così inutilizzate, tutta roba, bisogna fare spazio. Una volta quello stanzino era una mini camera da letto perfettamente funzionante, poi abbiamo cominciato a ammassare roba e un disastro. Va bene, di nuovo, buona cena. Caro Natalino, e tu hai cenato? Eia. Sì, cenato, per modo di dire. Che adesso ti devi rimettere in forze dopo la malattia. Certo, non subito potrai uscire, dovrai fare la convalescenza, no? Domani mattina devo uscire per forza. E cosa devi fare? La pensione devi tirare. E allora? Copriti bene, mettiti i guanti, la sciarpa, il passamontagna. E già vado in macchina. In macchina, ma poi? Ah, vabbè, sì. Meglio. Poi non c'è freddo alla fine. Stasera uscendo non mi sono messo nemmeno la felpa, solo la camicia felpata. Vabbè, la maglietta c'è sempre, insomma. Camicia felpata e la giacca. Ma poi la giacca me la sono tolta subito. Va bene. No, io già me lo metto il giubbotto pesante, la cuffia. Cavolo. Tanto fila non è che ne devo fare. Saranno i 4-5 mazzoni, centro la destra, via. Eia. Claudio, ci sei all'ascolto? Vabbè, dai. Beh, la gente vedendo è praticamente disabituata a modulare, quindi non ascolta nemmeno, capito? Poi piano piano, come si ripopola, ogni tanto qualcuno ascolterà e rientrerà. bene. Allora, che ore sono? Le 19, poi 9, quindi va bene, telegiornale è andato, pazienza. Tanto me, tutto politica. Oppure gente ammazzata, o politico o gente ammazzata. Basta non guardarne più. Poi siccome questo Kim Jong, come cavolo si chiama, minaccia sempre l'America, dice che quando vuole può colpire l'America quando vuole. E i giornalisti sempre se ne escono queste frasi, la guerra nucleare non è mai stata così vicina, aspetta che mi tocco le palle, tocco ferro, ci manca solo una guerra nucleare, così addio, addio a tutto. Giaraviglia Lona, se tocca l'America quello è rovinato. Ma speriamo che non sia l'America a rompere le scatole per prima, lo sai? Perché boh, questo è ricco, se non putti ci avrà aereo privato, lì se ne sta in quota, ci avrà bunker antiatomi, ci avrà chissà che cosa, ci avrà tutta l'organizzazione per campare anche se c'è una guerra, ci avrà vive di anofilire, cioè quelli ricchi sfondati se la cavano comunque, hai capito? Questi poveracci come noi finiscono male, senza acqua né cibo. Anche se lui ha il cibo, non può uscire da lì, perché se esce da lì gli fanno saltare il naso. Eia, comunque sarebbe bello per questa Nord Corea venisse un po' così dissolta, che passi il regime, capito? Dice che c'è un tasso di militarizzazione molto alto, per non dire altissimo, capito? Altissimo, non mi ricordo la percentuale però, capito? Da una parte sono tutti i militari e gli altri così, gente un po' modesta che campa come può, insomma tipo contadini. Beh, non possono essere militari, però la maggior parte sono militari. Beh no, spero che la maggior parte siano cittadini comuni, però c'è un alto tasso di militarizzazione, capito? Così possono tenere sott'occhio le... se fanno una rivolta riescono a sedarla, capito? Ah, ma è da fare il culo, cazzo, che sta facendo la cecchina. La cecchina? Eia! E che ci sia io dietro, tu? Ma cos'è, israeliana? E che ne so, io vedo un bel culo. Siccome in Israele sono quasi in stato d'allerta perenne, ho visto le ragazze, le soldatesse, non so, soldatesse, che andavano al mare in costume e con mitra appresso, con fucile e mitragliatore appresso, una cosa allucinante. E tu qui da Dinchivi ti bono un candelotto in culo e ti vasi ne sassa. Eh beh, sono sempre i fericordi con quei beduini là della palestinesi. Sono sempre in stato di allarme continuo, perché possono fare se lanciare i missili in qualsiasi momento, dall'altra parte, capito? Mamma mia, vivere così. Ma pensate che fanno la pubblicità dei viaggi per andare in Israele. Se ne mangi, vai in Israele, scoppia la guerra vera e tu sei bloccato dentro che non puoi nemmeno pigliare l'aereo per uscire. Sì, infatti. Che... ma tu vedi, andavo in chirurgia. Adesso peggio che hanno riconosciuto cosa, no? Gerusalemme è la capitale degli ebrei. Ho sentito, ma ho sentito anche che Trump era scontento. Dice ringrazio l'Europa per la loro discesa. Boh, in senso negativo, boh, non so il perché. Boh. I palestinesi comunque non sono contenti. Eia. Purtroppo, sai cosa, gli ebrei si erano c'erano spazi in tutto il mondo 3.000 anni fa o quanto è. Adesso siamo voluti tornare, invadere un po' i territori che erano stati presi da altri e ci si sono installati a forza. Anche quello non è giusto. Vabbè. Sì, Trump forse è stato forzato dagli ebrei americani a prendere quella decisione, perché in America è pieno di ebrei. Eia, però quelli che ce ne stanno in America stanno meglio forse, capito? Sono in zona di conflitto, invece in America stanno bene lì, capito? Forse ce la portano sotto, ma... Roberto, rieccomi entrato. Già, dove sei andato a pigliare quei pigiamoni? Manca a farvi dare il riccio. Tra i cinesi, prendiamo anche i cinesi, lì, io ho capito. Ma come pigiamoni? Descrivimeli, Gianni. E come pesava quelli invernali? Però non li ho presi adesso, ma tanti li ho presi già da 2 anni fa. E li avevo presi dai cinesi, che sono quelli caldi, come se li metti adesso senti già il calore. Eia, io mi vorrei però di con le mani che, come dire, molto più lunghe. Perché vai a letto, poi ti sale il pigiama e ti lascia la gamba, la caviglia scoperta, oppure il braccio scoperto, dove c'è la mano, l'avambraccio. Capito? Le vorrei con maniche fuori dalla norma, più lunghe del normale, e così anche le gambe. Quelli che ho io sono in mano. Sì. Io per esempio ho un pigiama così, andante, però tutto in file poi a letto, infatti si sta così bene a letto, mamma mia. Proprio ho voluto un pigiama più pesante in modo da stare in pigiama a casa, no? Però che sia bello caldo anche. Sì, vabbè, bisogna che me li cambi anch'io perché mi si stanno slambrando e me li parano i pantaloni. Oioioi. Bene, sono contento che sia entrato qualcuno, ho provato a chiamare, sai come ho chiamato? No, prima niente, non ho risposto, ho detto oh Finocchi, è riuscito a Pizio Natalino, prima di tutto Finocchio sei tu, e sei anche un braccone frattico. E invece io ieri ho chiamato. Gianni, nel suo sito di radio, questo passaggio, è uscito solo il bip. Prova adesso, guarda, sto uscendo. Ehi, a te ne accorgi poi dei picchi dello smitter? Dimmi, Gianni. Ho detto che adesso che sono di mattina, la sera posso entrare, ma quando sono di sera esco alle 9 e non c'è più nessuno. Adesso questa settimana sono di mattina, vediamo se mi lascio di mattina, se mi cambia, non lui, guarda. Sto facendo tutte le domeniche di continuo, il giorno di festa la Befana la devo lavorare, la domenica dopo devo lavorare e alla fine poi sono stressa. Ah, sei di mattina, ecco perché sei entrato, no? Perché Natalino si ricordava ancora il turno serale e di sera purtroppo alle 9 non c'è più nessuno. Io vado a vedere il film, se ce n'è o quello che c'è, bene, adesso vediamo cosa c'è in televisione stasera, ripassabile. Ieri c'era Independence Day e a seguire Invasion con un'attrice buona, vabbè, però mi interessava il film, non l'attrice. La prossima sera che l'ho fatto, l'ho portato giù in terra, c'era uno freddo, ma freddo però. C'è quel pigiama, non so cosa vuoi, se non ne ho voglia di scendere, mamma mia, ho preso e mi sono infilato il pantalone sul pigiama, da giù il coso, il maglione sul pigiama. sotto la tacca, si è sotto l'acqua, poi sono rimasto tutti già a caldo. Sì, racconta una cosa Gianni, che io, nonostante, cioè io sotto i pantaloni ho i pantaloni del pigiama, capito? Quando uso pantaloni un po' sottili mi lascio i pantaloni nel pigiama, se uso pantaloni felpati sotto allora forse se ne può fare a meno. No, beh, mi ha fatto vedere molto lì, ci siamo andati, e tu mi accompagni, dieci, mi accompagno tutti i pantaloni. Accompagnato, tra uno spogliatoio c'era tutta la gente fuori, e non è uscito lui, cazzo, in pigiama, cazzo, mi è venuto da ridere, oh, io è uscito in pigiama, adesso guardo se mi passano, guardo se mi stanno bene, era in pigiama. Ma chi era, Poponio? Oia, bene. Ho sentito Claudio al monitor, ma non è passato qua. Non è passato, forse sta facendo altro, dai. È andato a mangiare. Ok, vabbè, per oggi come baracchino c'è un posto, dai, che metto a posto qua là, il piatto, tutta la roba che ho mangiato, le bucce. E poi domani forse arriva la carabiniera, cominciamo a svuotare uno stanzino. Un po' di roba fatta, giusta po' cassetti, e qua ce n'è da fare. E purtroppo mamma, tanti anni, non ha mai fatto rifacimenti a casa, si è sperperati soldi così, sperperati, non ha mai aggiustato una finestra, capito, ho cambiato la finestra, messa in alluminio, nulla, sperperato, sempre soldi, si risputtano, e quindi i rifacimenti in casa sono ben pochi, quindi vanno bene, mio zio ogni tanto mette a posto un cassetto, mette a posto roba, male però, male. La casa va mantenuta, non è che una volta costruita si lascia allo sfascio, no? E vabbè, purtroppo non lo capisce, ma c'è anziana, quindi è sventiata. E per te è tutto fatto, non operaia express. Dimmi già, non ti ho capito. Ho detto che tua zia è una donna tutto fare, un operaio express. Ehi, doveva crescere, doveva nascere maschio. Fa cose di falegnameria, cioè piccole cose così, no? Sa fare, mettere a posto i piatti elettrici, varie cose sa fare, sa fare un po' di tutto. Doveva nascere maschio, forse avrebbe fatto, forse guadagnato persino di più. Anche mio zio sa fare queste cose, però non ne ha voglia. Bene o male, piccoli lavori di muratura, impianto elettrico, poi mia zia sa mettere la antenna TV, vabbè, quello ci sono anch'io, però per dire, per essere una donna sa, si fa tutto lei. Insomma, è abbastanza capace, dai. E poi ne ha voglia di fare roba, ne ha molta voglia, sta sempre lavorando, anche a casa sua, in casa sua, tra campagna, la casa di su, la casa di giù, fa un po' di roba. Sta sempre lavorando, guarda lì, lavora anche quello che non faccio io. E quindi ti dai su, e tu fai il papà. Ma oggi pochi soldi a Natale, ben pochi, va bene, non fa niente, ti sei aiutato anche per altre cose, certo, tasse ne basse, tasse non pagate, piccole cose lì, piccole, non piccole cose, roba dimenticata la mamma, e poi non la pago adesso, la pago l'altro mese e poi perde la... perde il bollettino, perde il coso e siamo dovuti pagare 480 euro di roba dimenticata, più ci è uscita la macchina, la mettere a posto. E vabbè dai, ma è importante risolverlo, poi gliele restituisce poco al mese, capito? Non ce le ha regalate, ce le ha prestate per via, giustamente. Vabbè, mantenerci. È una macchina che lasciamo in mano. Guarda, una fesseria, però lui era pericoloso. Come sono arrivato via Le San Francesco al mercato, sento questo rumoraccio dalla ruota posteriore destra. Ho detto, ma qua cosa abbiamo sfasciato tutto qua. Ma vedevo che la ruota, a occhio non aveva niente, braccetti non se ne erano rotti. E l'ho portata da lì subito via Le Volatore da al solito, no? Si era rotta una molla che teneva le ganasce del freno posteriore destro. Ed era, ha detto che era anche pericoloso girare così, quindi ha cambiato sia quella sinistra, quella destra che quella sinistra, perché tanto mi cambi una, l'altra è vecchia rifinita, poi si rompe l'altra, le ha cambiate tutte e due, poi mi pare le ganasce anche che siano danneggiate. 164 euro, dai, meglio quello che altro. Piccoli imprevisti, vedi? E va bene. Mi sta venendo la bioccola dopo mangiato. Mamma mia, comincio a sbadigliare. E io che ho dovuto cambiare la bobina della macchina, ci ho speso 150 euro per fortuna, perché che costa molto le 300. Sembrava incurato da lui. Ho detto, ma ha passato tantissimo, sei stato fortunato, perché adesso magari la macchina è già di una certa età e costano meno i figli, capito? Ma prima costava 320 e qualche cosa. Ma ho capito bene, la centralina? No, la centralina costa 1200 euro. No, la bobina è quella che va sulle candele, che fa, è presente il cappuccio che metti nella moto. Però questa bobina va su tutte le candele, ma è incastrata così, sulla candela. Ah, ho capito, dai. Insomma, ti è andata un po' bene, dai, 150. E purtroppo le macchine, sai, quando sono nuove è un conto. Per esempio mia zia quando aveva quella, aveva 3 giorni fa quella, come si chiama? La Dacia Sandero, che ha il motore Renault, no, è il gruppo Renault praticamente. E non le aveva mai dato problemi, è grazie alla nuova di fabbrica. Tuttora ha solo 50.000 chilometri. Praticamente ancora vergine con la macchina, 50.000 km, ha detto che quando la nostra avrà problemi ci regala la sua, che come motore, aspetta, 50.000 km ancora è buono, ottimo, e se ne prende un'altra lì, capito? Basta che noi ci paghiamo il passaggio. E va bene, dai, è di buon cuore, dai, malgrado tutto è di buon cuore. Ehi, ma cosa buon cuore, è solo per non pagare la rottamazione, mica di questa, un centinaio di euro, quant'è? Allora la regala a noi e ci paghiamo il passaggio. È molto critica e comunque con noi, ci aiuta, ci fa le cose, poi ci critica molto. D'altronde può ragione. Sì, magari tu la vedi come una critica, ma loro lo vedi come sono spronare magari a fare le cose, no? Tu la vedi come una critica, ma lei lo fa in modo che ti spruzzi, ma magari sbagliato il modo di farlo, ma in effetti non fa solo per voi, penso. Lo so che lo fa per spronare, però già lo sa come sono io, no? Quindi tanto non riesco a fare io, vabbè. Sto cominciando a calare, dai. Avanti, già non fermo a Flex. Te immagini che bel lavoro, collaudatori dei materassi, capito? Beh, lo dici 20 sciopero, ti faccio nel lino a vedere qual è più comodo, qual è quello più... Collaudatori dei materassi, mamma mia, che bel lavoro che sarebbe. Anche Ghino è bello, vero? Come nominati Ghino. Sì, mi potevo mettere il Ghino. Ghino. Poi da Tappignana alla fine non lo stiamo più usando quasi come nominativo, insomma. E vabbè. Era a livello scherzoso, Marco, che si diceva, non era... vivere, non era proprio un negativo che ti avevamo abbiocchiato. Spesso per vivere, noia. Te la ricordi la tipa, quella tipa là, quella che ti ho presentato, quella che ci ha sbarcato? Eia. Non dire niente al baracchino, questo c'è ancora da dire in verticale. Ok, adesso vado a portare il cane. Eia. Comunque sarebbe stato bello per me come nominativo Permaflex. E così mi chiede, com'è Permaflex? Sto sempre a letto. Ok, ma anche Guido è un materasso Guido, non lo conosci? Sì, mi pare di ricordare qualcosa al Guido, però sai, adesso si sentono tante marche così, anche quelle delle reti private, no? Quelle che hanno, che poi che materasso sarebbe, è una specie di pezzo di lattice, lattice sparso, quello che ha la forma, memory foam, no, memory foam c'è scritto, foam vuol dire schiuma. Io preferisco il materasso a molle, non per le schifezze. Però il cucina a memoria è un bel morbido, un bel bello. Ma l'avevo provato. Se dormiti solo come ti curi. Guarda, a me piace il letto di mamma, il materasso che c'è a mamma, quello che non è usato, no? Se a volte ci voleva un film a sé, mi si tagliavo lì, boh, adorme intanto. A volte mi piace non molle ma un po' rigido, certo non deve essere una tavola di legno, però è un bel materasso questo, molto bello. A parte che il mio mi sta lasciando, quindi entro breve cambieremo materasso, ma deve essere un materasso a molle, naturalmente. Che abbia la giusta rigidità. Ecco. Di schiuma, poi ti fanno pagare un bel un pezzo di schiuma, di cosa espanso ti fanno pagare un bel comunque. Quelli ad acqua devono essere fisica. Mi sa quei materassi ad acqua, non so se li hai mai sentito. Eia, come in America, anche visto in qualche film. No, però mamma mia, ti muovi appena quello tutto ondeggia, mamma mia. Mi viene il mal di mare. Le mani si scoppia di rocco. Il cazzo di avaglio che ti fa. Quei gatti che abbiamo in casa, come va a zampettare sulle coperte, buca con le unghie e il materasso, si è allagato tutta la camera. vabbè, certo di così tipi anche quelli riscaldati, che io proprio odio, sono cose pericolosissime. Guarda, a me lo scaldassonno Imetec, che probabilmente non ha funzionato il timer, mi ha bruciato il letto. Mi ha fatto una bruciatura proprio di carbone, nera e profonda, roba da chiedere dei danni. E mi pare anche un'altra volta, si è surriscaldato, mi ha fatto dei segni di bruciature sul materasso proprio leggeri, sul giallino. È roba pericolosa, perché anche se tu ti dimentichi fatalmente acceso, il timer... Il termostato dovrebbe comunque spegnerlo se si trova. C'è quello scaldato, mi ha fatto un buco nel letto. Lo sai, c'era davvero da chiedere i danni, da fai di causa. Che potevo anche finire bruciato nel letto. Ti è andata bene. Sai quante case si sono incendiate con quei termostati? Riscaldati per il coso, quei materassi. Poi... Mi pare avevo fatto le foto al punto con la bruciatura con la scritta Imetec, no, solo per accendere, per far vedere che era quello. E poi avevo fatto il buco, la foto al buco del materasso. Pericoloso, pericoloso. Mamma mia, qualcuno gli avrebbe davvero fatto causa, lo sai. Però noi... stare in tribunale è brutto, stare in tribunale è uno schifo. Più la lontani quella zona lì è meglio, meglio non finisce mai in tribunale. Io sono andato una volta solo e basta, poi non ci sono più tornato, però va. Io una volta ho testimoniato per una macchina bruciata, riconosce tipo le, che l'aveva rubato, un tossico che era sempre... Ma un ragazzetto che giovane, insomma, che non presentava minacce, però brutto ambiente. Poi quello mi faceva pressioni per... Vabbè, non si può dire alla radio, dai. Perché magari vengo ascoltato nelle casse di qualche computer, eccetera. No, no, ne parliamo di verticale, dai. Sì. No, io non sono andato a fare cose penali, verità. Ci andavo da ragazza quando facevo figli a scuola, aveva seguito più così processi per omicidio di quelli, di quel ragazzo che aveva ammazzato la ragazza che era incinta e avevano deciso di morire tutti e due perché non si sentivano di dire i genitori. E praticamente lui si è sparato con un fucile sul banco in testa, però non è morto. Invece lì è morto davvero. No, a me non piacerebbe vedere quella roba. Mamma mia, già le sentiamo troppo al telegiornale. Sì, che palle, vai lì, devi stare. Brutto, poi quello ti guarda male, l'imputato ti guarda male, no? Perché l'hai incastrato. Ma poi pochi giorni dopo era fuori, l'ho visto fuori col motorino, così, con la birra in mano, con gli occhi bianchi, già fatto era. Che cosa li fanno questo? Poi ho saputo anche che è morto tempo dopo, forse per la droga, non si sa. Ma tu l'hai visto bruciare la macchina? Ah? L'hai visto mentre bruciava la macchina? Mentre rubava la macchina? Ah, non l'ha bruciata? No, era un furto d'auto. Diciamo che proprio ho telefonato quando l'ho visto maneggiando nella macchina. E poi quando stava scendendo in retromarcia nella via contromano ho telefonato per la seconda volta e l'hanno fermato all'altezza di Delogo, mi pare, lì, o di via Roma, non so, proprio l'hanno trovato alla guida, quindi non... Cioè non è che lo dovevo riconoscere, però è stato beccato proprio alla guida in flagranza di reato, quindi non c'era niente da fare, no? Non poteva scappare, scamparsela. E tu che cosa hai dovuto testimoniare diciamo, in eventi? Niente, che avevo visto portare via la macchina e c'è una storia dietro, dai. Ne parliamo in verticale. Vabbè. Invece a me lo sai cosa è successo l'altro giorno? Mi sono fatto alle 6 di mattina, domenica. Ho detto così mi faccio tutte le pulizie della casa, mi sa che poi devo andare a mezzogiorno e mezzo a lavorare e non c'ho tempo di fare niente, ho fatto bucare tutto qua. E faccio la finestra alle 6 e mezza e c'era questa macchina nella piazza e che puntava i fari verso casa. E ho detto, cazzo, qui non sta facendo. Non è che vuoi aprirmi la casa? E un po' mi ha sospettato. Però poi è passata l'ora, le 7, le 8, le 8 e mezza, viene l'ora di portare giù a Tyson. E poi insomma da curiosare, questa macchina sempre con le luci accese. Cazzo, sono andato e la macchina era morta, c'era un tipo dentro, riversa sul volante. Ho provato, bussato, tutto bene, e non rispondeva. Gli ho scosso la macchina, niente, non rispondeva. Però ha chiamato 412, ha detto guarda che così e così. Dice, dov'è questa della meridiana? E mi ha detto, non lo sapete, no, no, non ce l'ho presente dove sia. Mi dica dove, mi ha detto, mio amore, se lo sapete dove. Poi vedete mio amore, se poi trovate a me, ve lo faccio vedere io. Alla fine sono arrivati dopo mezz'ora. Sono arrivati, dove ragazzi? Non guardi nessuno. Tra l'altro c'è due notte con un'altra macchina che stava venendo, gli ha toccato lo specchietto, la macchina è incredibile. Vabbè, dice ma qua non ci possiamo fermare perché la macchina sola non la possiamo lasciare, la dobbiamo portare su. E allora dovete fare il giro, la prima attraverso a sinistra, salite su e poi fate entrare nella piazza. Gli hanno scosso la macchina, anche loro, bussando, niente, ci spacchiamo il vetro. Poi alla fine abbiamo visto che si è mosso. Ragazzo, apri la... Non trovo un bel posto per aprire. Dice, ma qua devi aprire, qua. Com'è la serata, la sicura, aprono lo sportello, sta facendo all'interno. Ma cosa aveva? Malore oppure ubriaco, fatto? Come è tipico? Come è tipico ci aveva? Solo che si era chiuso dentro, se si sentiva male e non poteva soccorrere nessuno. Era con la macchina in moto pure, tra l'altro. Allucinante, guidando e in coma etilico era. Figurati quanto ha bevuto questo. Mamma mia, meno male anche che non si è schiantato e che non ci è morto, perché c'è stato un bel di ore lì. Poteva anche passare dal coma etilico alla morte. E che età poteva avere? 20, 30, 40, 50? No, era giovane, un ragazzo sui 26 anni, sempre. Un ragazzo giovane. E probabilmente ha bevuto, si è reso conto che non ce la faceva e si è fermato. Si rideva. Cioè, ha avuto testa di fermarsi, di riposarsi, solo che non ha avuto testa di lasciare il motore acceso, perché bastava che cadesse sulla marcia e restasse la marcia, era anche in discesa, la macchina ci sarebbe scesa di più. Magari non era in grado nemmeno di pensare, come dire, razionalmente. Ma come mai era chiuso da dentro? Così uno guida e si metteva sicura. Oh, vabbè. Gli è andata bene, dai. Era fermo, era capito. Se l'ha messa la sicura sicuramente per dormire. Quindi dice adesso mi rompere scarpo. Ma non cazzo per fare accesi, macchine in moto, cazzo a risi in mezzo, filtrarlo di mezzo, qualche lungo. Alle 9:15 chiamate i carabinieri, ho detto guarda, due secondi, dice, vabbè adesso andiamo a fare un controllo. Magari è cotto, mi ha detto. Può essere sbronzo, può essere fatto, cioè non lo so perché io qui non li libero perché c'è il vicino. Come ti dico, mamma mia. Purtroppo la gente ha il porco vizio di guidare anche, cioè io so che sono una persona che ragiona. Se ho bevuto so che non posso guidare, o meglio, se so che devo guidare non bevo, se so che devo tornare a casa non bevo, c'è poco da fare. O se ho bevuto so che non devo prendere la macchina e non la prendo, ma c'è gente proprio se ne sbatte le palle, magari poi ammazza qualcuno. Non regge, magari ci sia quello che regge l'altro, c'è quello che non lo regge, dunque basuri. Io per dire, quando ieri che ho bevuto, ho mangiato, bevuto, dico la verità, però ero un bel tranquillo, perché non c'avevo niente. Ma poi sai, quando bevi anche a pranzo, l'alcol non ha l'effetto che ha a stomaco vuoto. Anche noi per esempio sia la notte, il 31 notte che il primo a pranzo abbiamo bevuto vino lambrusco, poi lo spumante con la fine del pranzo, ma non ci ha fatto niente perché avevamo mangiato. E poi sempre io mi autolimito, c'è gente che non si sa limitare. Poi quando vanno i paesi, buffa, cioè bevi, se non bevi ci offendo, allora io gli avrei detto offendetevi pure e me ne sto andando, non è che ti devi intossicare per loro, no? Marco, ma il Bellini tu l'hai mai bevuto? Il? Bellini, spumante Bellini. No, non mi sovviene. Noi abbiamo trovato un'offerta di Eurospin passate le feste, 99 centesimi, fa cena, spumante moscato dolce, niente da dire, buono Guarda, noi non pigliamo spumanti, il più caro abbiamo preso è 6,99, quindi 7 euro, ma non siamo a comprare spumanti costosi, perché tanto poi, alla fine, sia pure quello. Non è così, il Bellini è alla pesca, se tu lo bevi te ne innamori, non lo voglio più. Prova, con la volta tu mi dici la stessa cosa, costa un po', costa 10 euro, però è alla bottiglia celeste, cercalo su internet, spumante Bellini, alla bottiglia celeste, ma è uno spumante veramente buono, non lo conoscevo manco io, l'ho bevuto a Natale. Di lui salvivo, Bellini, si beve fresco là, bottiglia che non è trasparente, è color celeste, opaca, quindi non è trasparente, non si vede l'interno. Ma praticamente ha il colore della pesca, quando tu lo osservi ha il colore della pesca. È buonissimo, guarda, te lo dico, perché qui abbiamo brindato con quello lì nella mia vita, no? Che ci pare l'hanno comprato per, diciamo, per bere, per fare i brindisi, dai. No, non lo so, io alla pesca mai visto. Poi teniamo a prendere sempre cose normali, non cose elaborate. Ehi, deve essere buono però, essere buono, se l'hai detto tu vuol dire che è buono. E vabbè, ma tanto chissà chi lo vende, dove lo trovo, dove non lo trovo, poi ormai sono passate le feste, quindi per l'epifania ci abbiamo già, siamo già muniti di spumante, va bene. Poi già gira, riesci a vedere che ore sono, che sono sdraiato. Le 20:55, azzina io. Ma andiamo, là, tanto devo portare il telefono adesso, l'ho portato alle 6, quindi stavo aspettando un pochettino per portarlo. Oggi tu sai cosa è arrivata da mangiare? L'ho mangiata bene, l'orata. Non è toccato a pesce niente, l'ho dato l'orata, che l'ho fatta anche un bollita col limone e col una scorpacciata di davanti. Ehi, buona l'orata, caspita. Va bene Gianni, dai. Natalino, non so se ancora l'ascolto. Io saluto entrambi e tutti quelli all'ascolto, dai. Ci sentiamo appena possibile. Domani forse si lavora qui a casa, quindi quando posso entro, dai. Adesso le feste sono passate, queste fottute feste, quindi tenderò a rientrare in radio, dai. Allora, ci sentiamo Marco, buonanotte, ci sentiamo, dai. Ciao. Ciao a tutti e due, anch'io mi curico adesso, va. Ciao. Ciao Natali, ancora qui, pensavo che non ci fossi più. Poi a Ciara Medusi siamo stasera. Ci dobbiamo fare di troppi giorni dove non c'era nessuno. E poi un altro ricordo buono è il baile al cioccolato, che buono. Ah, il bailis al cioccolato, allora, già il bailis è buono, perché mamma mia, se mi dai la bottiglia guai, quindi è ancora più buono, quindi è tipo crema al cioccolato, così. Via, ti fa partire, non sembra manco il cuore, sembra proprio il sapore del cioccolato, cioè. Poi sottofondo senti capito che è vigoroso, però prima si presenta il sapore del cioccolato. Sì, prima o poi lo proverò. Va bene, di nuovo saluti a tutti, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao. Buonanotte, ciao.